ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del Recovery Fund, dello stato dell'arte nella trattativa europea che viaggia in parallelo per sbloccare il recovery con l'approvazione del budget europeo. Non c'è ancora un accordo, ma oggi Angela Merkel ha detto di essere fiduciosa che si potrà arrivare al primo stanziamento. Sappiamo che per l'Italia questo vuol dire circa un anticipo del 20%, quindi del 10%, scusatemi, quindi 20 miliardi, di cui 6 miliardi e mezzo di sovvenzioni, 12 miliardi e mezzo di prestiti, già nel 2021. È un anticipo importante, dicevo, Angela Merkel, ho già detto, puntiamo un accordo per i fondi in modo che avvenga già all'inizio del 2021, possono essere spesi i soldi del recovery. Di questo parleremo. Parleremo anche invece di quello che sono le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che ha pubblicato oggi il suo World Economic Outlook, con stime un pochino più ottimistiche per quello che riguarda il mese di giugno. La recessione è meno severa, il PIL mondiale farà meno 4,4% contro un meno 5,2% stimato in giugno. Migliorano le stime anche nell'area euro, meno 8,3% in media, gli Stati Uniti meno 4,3% in media, come crollo del PIL del 2020. Migliorano le stime per Germania, Francia e Spagna, dove cioè sono invariate per la Spagna. Il PIL tedesco dovrebbe fare meno 6% contro un meno 7,8% stimato in precedenza. Il PIL britannico dovrebbe fare meno 9,8% contro un meno 10,2% della stima di giugno. E il PIL spagnolo invece confermato un meno 12,8%. Quello francese meno 9,8%. Migliora anche le stime sul PIL italiano, erano molto negative quelle del Fondo Monetario a giugno, di 2,2, cioè meno 10,6% contro il meno 12,8% previsto a giugno. Quindi possiamo dire che l'Italia farà meglio della, secondo le stime del Fondo, meglio della Spagna, leggermente un punto percentuale con queste nuove stime peggio della Francia. La Germania invece, insomma, già da prima era il paese, pur con un crollo del 6%, che si comportava meglio degli altri paesi, e noi dovremmo fare sostanzialmente in maniera molto simile alla Gran Bretagna, meno 10% la Gran Bretagna, meno 10,6% noi. Appunto, invece la Francia ha un miglioramento abbastanza forte di due punti, però due punti di miglioramento sono previsti anche per l'Italia rispetto alle stime. Vedremo, perché siamo ancora a metà ottobre, ma di questo parleremo. Parleremo anche di cosa succede con il DL agosto. Il DL agosto è legge a questo punto, è quello che prevede il super bonus al congedo per i figli, il super bonus, il congedo per i figli, e è un DL che vale 25 miliardi, è legge da ieri che ha incassato via libera della Camera, però non c'è stato il posticipo delle cartelle esattoriali, non è passato l'emendamento che prevedeva la proroga, quindi da venerdì l'Agenzia delle Entrate tornerà a notificare in tutto 9 milioni di cartelle esattoriali. Il Ministro dell'Economia Gualtieri ha precisato che la notifica sarà graduale, si ripartirà dalle cartelle di marzo con l'obiettivo di chiudere il nuovo arretrato maturato nei prossimi 6 mesi. Il che non vuol dire che le cartelle e gli altri atti targati novembre arriveranno dopo Pasqua dell'anno prossimo. Per quelli nuovi si riprenderà da subito, saranno graduali solo le notifiche delle cartelle lavorate tra marzo e il 15 ottobre, quindi sostanzialmente i mesi precedenti, ma ne parleremo, così come in apertura parleremo di un tema che è a cavallo chiaramente tra economia e salute e sanità. E cioè abbiamo dato durante la classifica il tema delle terapie intensive dovevano essere portate a 8.000, siamo, se ho ben visto, a 6.500, e lì c'è un rimpallo anche tra regioni e commissario Arcuri su chi era in ritardo nel permettere poi le gare per le terapie intensive. Ma la cosa interessante che oggi è sul Sole 24 Ore è che insomma la soglia di sicurezza fissata dal governo lo scorso maggio, quando vennero stanziati 1 miliardo e 300 milioni con il DL rilancio per potenziare questi reparti, è di 14 posti ogni 100.000 abitanti. Ora, se si va a vedere come ha fatto il Sole la distribuzione geografica, ci si accorge che solo Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Val d'Aosta hanno questa proporzione, 14 posti in terapia intensiva per 100.000 abitanti. Non voglio fare allarmismo, è chiaro che abbiamo raggiunto i 450 posti in terapia intensiva, ma siamo a un decimo quasi, per fortuna, dai 4.000 pazienti ricoverati a fine marzo. Ed è vero che il dato, però va anche ricordato che di solito la metà delle terapie intensive in questo paese sono occupate da malati di altro genere, non certo per il Covid. Però il problema è verificare in tempo, visto che ancora le terapie intensive sono sotto controllo, che cosa non ha funzionato in altre regioni e perché di questo ritardo. Adesso farò l'elenco, insomma le situazioni più a rischio sono in Campania, 7 letti per 100.000 abitanti, quindi siamo alla metà di quanto indicato dal governo, Umbria 8 letti, Marche 8 letti, il Veneto ne ha di più, ne ha quasi 17 per 100.000 abitanti, cioè più della soglia di sicurezza fissata dal governo, così come la Val d'Aosta che ne ha 16, il Friuli è 14,5. Lazio, Emilia e Toscana hanno le situazioni abbastanza buone, anche se non a livello di 14, 12,7 Lazio, 11,5 l'Emilia e 11 la Toscana. La Lombardia sta andando avanti nella riorganizzazione delle terapie intensive. Ricordiamo che la scorsa primavera è riuscita ad aprire fino a 1.800 posti spinta dall'emergenza. Però è ancora meno 10 letti per 100.000 abitanti, ma in questo momento 120 letti in più rispetto alla situazione pre-coronavirus. Comunque ne parleremo, perché il tema è chiaramente anche di finanziamento economico. Allora, la borsa invece oggi è negativa in tutta Europa, non in maniera drammatica, ma insomma meno 0,9% Milano, meno 0,85 Parigi, meno 1,20 Francoforte, Londra meno 0,77%, tra i titoli B per banca meno 6,6, Banco BPM meno 4,40, Mediobanca meno 4, Unicredit meno 3,90, Saipem meno 3,60, Intesa meno 2,5, Banca Mediolanum meno 2,20 come Poste Italiane e Leonardo e Tenaris Eni meno 2,1%, il fronte opposto CNH più 1,30%, Inuit più 0,75%, Terna mezzo punto percentuale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, andiamo con le notizie di carattere internazionale. Oggi non c'è tantissimo, a parte il Fondo Monetario, di cui parleremo in maniera apposita. Il sindaco di Londra, Khan, che dà per certo ulteriori restrizioni. Parigi che valuta il coprifuoco notturno, lo dico perché stiamo ancora commentando le nuove disposizioni di PCM su ristoranti e bar fino a mezzanotte o fino alle 21 se è solo la sport e non ci sono i posti a sedere. L'Olanda ha un nuovo record di casi, 7.400 nuovi casi in 24 ore, e va verso la chiusura totale dei ristoranti e la vendita di alcolici non oltre le 20. Lo dico perché insomma noi cerchiamo di mantenere un approccio più morbido. Io spero che si riesca a mantenere, lo spero per il mondo della ristorazione, per i servizi annessi, insomma un approccio più morbido. E in Belgio invece i contagi sono saliti dell'80% rispetto alla settimana precedente, quindi si è deciso che due province, quella del Brabant che è Vallone e quella del Lussemburgo, il coprifuoco notturno, cioè da mezzanotte in poi nessuno potrà circolare se non per motivi sanitari o di lavoro, in realtà tra l'una e le sei. Questo chiaro ha come obiettivo evitare gli assembramenti. Dico insomma, spero di non arrivarci mai a un coprifuoco notturno, non perché uno debba per forza girare dall'una alle sei, ma insomma non è un bel segnale. E anche appunto il governo francese sta studiando l'ipotesi per Parigi e la regione dell'Île-de-France di una restrizione serale alla circolazione sul modello di Berlino e di Francoforte. Cambiando tema, oggi il WTO ha autorizzato l'Unione Europea a porre dazi ai beni americani e statunitensi per via degli aiuti di Stato concessi a Boeing per 4 miliardi di euro. È la decisione speculare a quella che aveva dato ragione a Boeing sugli aiuti di Stato, diciamo gli aiuti al consorzio Airbus, che aveva dato la possibilità agli Stati Uniti di mettere una cifra analoga di dazi sui prodotti europei, e ne abbiamo parlato a suo tempo. Per quello che riguarda invece lo spread, oggi segnalo, non ne parliamo più da un po', ma oggi è sceso a 121 punti, siamo ai livelli più bassi dall'aprile del 2018, con un BTP a 10 anni che rende, che ha il minimo storico quanto rendimento, allo 0,67%. Oggi anche il BTP a 3 anni è tornato negativo, meno 0,14%, sono tutti effetti e conseguenze del piano massiccio di acquisti di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. C'è stata ed è terminata poco fa la conferenza stampa, adesso è in diretta dal Senato il Presidente del Consiglio, che ha illustrato il DPCM, oggi ampiamente presente su tutti i giornali, è in vigore da domani e sarà valido fino al 13 novembre. Ha detto Conte: puntiamo a evitare il lockdown e tutelare l'economia, i party in casa possono essere fonte di pericolo, però ha detto attenzione, non manderemo certo la polizia in casa, il suggerimento è non più di 6 persone, i locali chiuderanno alle 24, appunto dalle 21 si potrà consumare solo ai tavoli. E discoteche, sale da ballo, il governo non le ha mai aperte, resteranno chiuse. Nei locali pubblici non saranno più consentite feste, a meno che non siano connesse a cerimonie come matrimoni o battesimi, anche in questi casi con il limite di 30 partecipanti. Poi, visto che c'era stato uno scontro con alcuni presidenti di regione, se ho ben capito Zaia soprattutto, in merito alle scuole superiori per la difficoltà nel gestire il trasporto locale degli studenti, era arrivata la richiesta di tornare alla scuola a distanza nelle scuole superiori, bocciata dalla Azzolina e dal governo. Conte su questo, sulla scuola, ha detto oggi le cose nella scuola vanno abbastanza bene. Dai riscontri che abbiamo, dalle verifiche, ma continueremo ad aggiornarci ovviamente perché dobbiamo mantenerci sempre flessibili, nell'ambito della scuola le condizioni di sicurezza sin qui garantite si stanno rivelando efficaci. Anche per la responsabilità dei dirigenti scolastici, dei docenti, del personale ATA e dei nostri ragazzi. Abbiamo i riscontri, quindi, che non è lì nessun focolaio, non si crea generalmente nessun focolaio di diffusione del contagio. Però dobbiamo stare attenti, tutto quello che ruota anche intorno alla scuola, prima, dopo la scuola, incontri poi nelle abitazioni private per semmai per un party o anche solo per studiare, ma poi per distrarsi eccetera. Quindi faremo di tutto per proseguire in questa direzione. Ecco perché non c'erano i presupposti e non ci sono attualmente i presupposti per tornare, prefigurare, ipotizzare una didattica a distanza. Allora, per quello che riguarda, vedo molti messaggi dicono, ma insomma vi rendete conto, il catering con 30 persone, guardi, mi rendo conto, anche perché quando diciamo che l'Oreca, cioè hotel, ristoranti e catering, come si chiama in gergo con un acronimo, è uno dei settori più massacrati, ne siamo perfettamente consapevoli. Il punto è che io ho citato quello che sta avvenendo nel resto d'Europa per far capire che adesso, cioè speriamo, mettiamola così, speriamo di doverci lamentare solo della chiusura a mezzanotte e di non più di 30 persone. Perché se guardo quello che succede nel resto d'Europa, altro che 30 persone, qui vanno a fare il coprifuoco proprio la sera e a creare. Quindi vediamo, è una situazione difficilissima, mi rendo conto, ed ecco perché continuo a dire che poi alla fine ci sarà bisogno di mettere soldi freschi e a fondo perduto nei settori che comunque non riescono a rialzarsi, perché non mi sfugge che per i bar e i ristoranti comunque non tanto la chiusura a mezzanotte, anche la chiusura a mezzanotte, ma anche il fatto di poter contare solo, diciamo, su sui clienti che sono seduti porterà una limitazione. Del resto, voglio dire, si sta cercando di evitare i focolai anche, diciamo, della cosiddetta covida o movida. Penso che ognuno di noi, se in queste settimane è uscito il venerdì o sabato sera, si è reso conto di come sia in alcuni casi la situazione corretta, in altri casi assolutamente non gestita. Allora cosa fai? Mandi le forze dell'ordine o alternative non ne hai? Comunque, sentiamo invece, questa mattina era ospite di 24 Mattino con Simone Spezia il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che ha detto: abbiamo discusso fino a tarda notte, poi però il DPCM ci è scomparso nelle fauci di Palazzo Chigi. Io certo che ho visto un testo su cui abbiamo discusso fino intorno a l'una di notte con i colleghi governatori, abbiamo mandato una serie di osservazioni al governo per dare il nostro parere favorevole, dopodiché è scomparso nelle fauci di Palazzo Chigi. Penso che qualche osservazione, non lo so, magari l'avranno colta, qualche un'altra, come spesso accade, no, non ne ho più traccia. E poi il tema grosso che affronteremo anche nel corso dei GR è il tema del trasporto locale, perché oggi l'ufficio studi dell'Astra, che è l'associazione che riunisce le società di trasporto pubblico locale, dicono che con una riduzione ulteriore del riempimento dei mezzi, attualmente l'80%, sarebbe difficile continuare a conciliare il rispetto del protocollo anti-Covid e garantire il diritto alla mobilità per diverse centinaia di migliaia di utenti. Si stima che se scendesse la capienza dei mezzi al 50%, lo stima l'Astra, vi sarebbero 275.000 persone al giorno a piedi, cioè che non potrebbero utilizzare i mezzi per motivi di studio o di lavoro. De Caro, presidente dei comuni italiani, Antonio De Caro, ha detto: va bene controllare la capienza, noi vorremmo anche abbassare questa percentuale al 50%, però abbiamo bisogno di più mezzi, risorse e soprattutto bisogna tornare allo smart working come era fino a qualche mese fa. E questo però, come sempre, tutto si tiene, avrà una ricaduta pesante e negativa per tutti anche qui il mondo dei servizi locali legati alle zone degli uffici, le zone lavorative. Vedete che comunque la si prenda, gira e rigira, il danno più grosso lo sta subendo il settore del commercio, ristorazione, bar, taxi, servizi, accessori, cioè tutto quello che ruota attorno o al mondo del turismo o al mondo dello svago o al mondo del lavoro, perché chiaramente se torniamo allo smart working, ancora adesso visto che l'indicazione è al 50%, non più al 70%, però insomma se l'indicazione è quella, a me risulta abbastanza evidente i settori che ne stanno uscendo messi peggio. Comunque la Coldiretti oggi stima che la ristorazione avrà un calo di 34 miliardi su dati Ismea nel 2020, e questo commentando anche la chiusura di ristoranti e bar alle 24 e alle 21. Sentiamo, è intervenuto con Alessio Maurizio, effetto giorno, Roberto Calugi, che è il segretario della FIPE. Non possiamo che accogliere questo provvedimento con un senso di scoramento che ormai non conosce limiti. I bar e i ristoranti hanno riaperto il 18 di maggio, ora vorrei chiedere a qualcuno dei suoi radioascoltatori se ha notato un picco pandemico a giugno, a luglio. Questo non mi sembra sia accaduto. Il Dipartimento di Salute inglese ha radiografato, diciamo così, l'origine del contagio. Bar e pub contano per il 3%, fatto 100 il totale, mentre il sistema appunto scolastico e il sistema dei trasporti hanno pesi ben maggiori. Lo dico perché continuare a pensare che il luogo dell'untore sia da destinare solamente ai bar e ristoranti che sono devastati da questa pandemia, che solo quest'anno stanno rischiando di veder chiudere 50.000 imprese. Qui siamo, come dire, a un rischio di disoccupazione di 350.000 persone. Avere un provvedimento del genere non è solo economicamente dannoso, ma è anche inutile. È inaccettabile che si continui ancora ad adottare provvedimenti di questo genere senza dall'altra prevedere delle forme di ristoro economico. Noi da domani ci ritroveremo con migliaia di piccoli imprenditori che dovranno semplicemente chiudere e non riaprire mai. Io spero che qualcuno se ne assuma la responsabilità. Cosa si poteva fare? Beh, una cosa molto semplice: chi sbaglia paga, aumentare i controlli, ma non solo i controlli dentro i locali. Allora sì, io devo dire a Calugi, che molte volte è stato nostro ospite, sì, però bisogna anche essere molto realistici. Le immagini che ho visto io e le situazioni che ho visto in maniera diretta, ripeto, o tu mandi il reparto mobile e i carabinieri creando tensioni di ordine pubblico quando hai centinaia di ragazzi che bevono davanti ai locali, è chiaro che qualcosa devi fare. A me dispiace moltissimo per l'asporto dei bar e dei bar soprattutto, però se il problema sono gli assembramenti fuori e la cosa non riusciva a funzionare così, mi rendo conto che danno vi sia. Faccio notare a Calugi che in altri paesi, Gran Bretagna, Spagna e Francia, la situazione è anche peggiore. Su una cosa invece mi trovo completamente d'accordo anche con la FIPE, e cioè che a questo punto si debba prevedere un ristoro per queste categorie. Voglio dire, paradossalmente altri settori stanno tornando, commentavamo ieri la produzione industriale, speriamo che non rallenti di nuovo, ma è chiaro che tutto il mondo legato ai servizi, al rapporto con la clientela dovrà essere, vale anche per le agenzie di viaggio, insomma, non mi voglio concentrare solo su bar e ristoranti. Però voglio dire, isolate gli anziani, fate stare a casa gli anziani. Sì, ho capito, ma guardi che in un paese come l'Italia, dove c'è comunque anche una famiglia, rapporti familiari abbastanza allargati, non è che l'Italia si fermi a Milano o a Roma. Il problema è, io posso far stare a casa gli anziani quanto vuole lei, ma se poi vedo le centinaia di ragazzi che prima o poi un contatto con il genitore, con il fratello, con il nonno, con lo zio ce l'avranno, capito? Il problema si poneva anche lì, inutile che girarci attorno, come nel trasporto locale. Sono d'accordo con chi mi dice sull'ipocrisia del trasporto locale, d'accordissimo. Comunque andiamo adesso su meteo e pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi partiamo con il primo tema: come e quanto si stanno usando il 1.300.000.000 che il governo ha stanziato con il DL rilancio per potenziare i reparti di terapia intensiva. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Tornano i sogni di oggi. Il sogno di oggi è non dover più parlare del tema delle terapie intensive dopo che il governo ha stanziato, qui non si può dare la colpa al governo, 1.300.000.000, e che una volta per tutte venga tagliato ogni nodo tra il rimpallo di responsabilità tra commissario Arcuri e regioni, perché adesso stiamo per raccontare quante regioni si sono mosse in questi mesi effettivamente sulle terapie intensive. Non posso continuare con i ristoratori e i bar. Allora, ha ragione a mio avviso chi mi scrive, dice: guarda che ci sono anche i teatri, i cinema, gli eventi, il catering, la moda, il design, l'arte, il turismo, le compagnie aeree, non ci sono solo i bar e i ristoranti. Non voglio farmi girare le scatole, però lo dico a chi mi sta scrivendo dai bar e ristoranti: abbiate pazienza, va bene così, fidatevi. Chiusura a mezzanotte per un ristorante, a meno che non sia un ristorante particolare, può ancora essere accettabile. Chiusura a mezzanotte per un bar con i tavolini, ho capito che i bar chiudono alle 2, ci sarà un danno, ma è ancora accettabile. Non si deve arrivare alla chiusura, come è avvenuto a Marsiglia e a Saint-Provence, chiusura per 2 settimane. L'alternativa è questa. Allora, vi leggo adesso i dati, ma non i dati, i nuovi positivi sono aumentati, 5.900, ci sono 120.000 tamponi, e sono sicuramente più alti di quelli di ieri, ma ieri si riferivano a domenica, sappiamo che domenica va sempre in basso il dato, per meno tamponi. Leggo i dati clinici, cosa che ho promesso di fare, sempre comunque. Allora, i ricoverati sono aumentati di 255 unità, i posti in rianimazione sono aumentati di 62 unità, e questo aumenta la terapia intensiva, scusatemi. Abbiamo superato quota 500, 514, non è ancora drammatico, non siamo ancora ai 4.000, però abbiamo beccato altri 62 posti in rianimazione e abbiamo superato la quota di 500, quando ricordo che a fine agosto, andate a vedere i numeri, i posti di terapia intensiva erano intorno ai 100. Allora devi stare attento alla proporzione, devi bloccare questa continuo aumento dei posti occupati, anche perché, ripeto, di solito il 50% dei posti in terapia intensiva in questo paese sono occupati da persone che hanno altre malattie, che ne hanno bisogno, ne avranno bisogno comunque. O decidiamo che se c'è un ricovero urgente non va più in terapia intensiva? E poi il ristoro è giusto che avvenga, a mio avviso, su bar, ristoranti, settori colpiti. Si va a vedere il fatturato dell'anno scorso e lo si paragona al fatturato dei 3 mesi di quest'anno. Così chi ha fatto nero, e c'è anche chi fa nero tra bar e ristoranti, ce n'è, almeno non avrà nessun vantaggio rispetto a chi ha fatto, chi ha dichiarato tutto. Segnalo che il DL agosto, di cui parleremo fra un attimo, aggiunge il contributo a fondo perduto per gli acquisti di materie prime del 100% made in Italy per i ristoranti, da 2.500 euro. Mentre se tu sei un ristorante in 29 città d'arte, nei centri storici, hai un contributo che parte da un minimo di 1.000 euro e può arrivare a un massimo di 150.000 euro, perché sappiamo che nei centri storici il danno è ancora più forte per l'assenza dei turisti stranieri. Eh no, perché va ben tutto, però ragazzi, su adesso, che il problema sia che il ristorante chiude a mezzanotte con intere categorie ancora in ginocchio, Dopodiché quello che ho visto io nei ristoranti in questi mesi non è sempre stato edificante. Ho visto tavoli da 12 affiancati a tavoli da 12 con un metro di distanza, spiegatemi qual è il distanziamento lì dentro. Comunque, allora, perché adesso che sembrano solo vittime, no? È un provvedimento abbastanza morbido. Temevamo che fosse alle 23, che mi rendo conto che è un problema peggiore. Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera Barisoni. Dunque, voi avete fatto una bellissima ricerca sul, assieme anche a Sara Monaci, quindi do il credito anche a lei, su come sono messe le regioni sui posti in terapia intensiva. Il governo stabilisce a maggio, quando stanzia 1 miliardo e 300 milioni con il DL rilancio per potenziare i reparti, che la soglia di sicurezza è 14 posti per 100.000 abitanti. Se ho ben capito, 14 posti in tutto, non per le terapie intensive Covid. Solo Veneto con 16,8 posti per 100.000 abitanti, Friuli Venezia Giulia con 14,5 e Valle d'Aosta con 16 sono, diciamo, sopra la soglia di sicurezza o nella soglia di sicurezza fissata dal governo. Poi abbiamo Emilia e Toscana che hanno 12,7, Lazio scusami 12,7, Emilia 11,5 e Toscana 11, quindi sotto ma vicino. La Lombardia è a 9,8, quindi meno di 10 letti per 100.000 abitanti, anche se ne ha 120 in più rispetto alla situazione pre-Covid. Ha però 800 attrezzature aggiuntive da poter mettere in rapidità. Le regioni messe peggio, se ho ben visto, sono Campania 7,3, quindi la metà di quanto è considerato soglia minima, Umbria 8 e Marche 8,3. La domanda è, si partiva da situazioni diverse ovviamente, ma che cosa è stato fatto o non è stato fatto nell'utilizzo dei soldi e perché, Marzio? Allora sì, si partiva da una dote comunque non proprio sufficiente, perché nell'era pre-Covid noi avevamo 5.179 posti in terapia intensiva, in Germania ce ne sono 28.000. E si è deciso, dopo lo tsunami della scorsa primavera e la corsa ad aumentare i posti letto. Ti ricorderai che si creavano posti letto al posto delle sale chirurgiche, ovunque, no? Si chiudevano le parti, si creavano posti precari, appunto. Questo decreto rilancio a maggio ha stanziato 1.300.000.000 e dava uno scadenzario abbastanza breve a regioni e poi al commissario per potenziare i posti letto e aggiungere 3.500 posti letto in terapia intensiva più altri in subintensiva trasformabili in terapia intensiva. Cosa è successo? È successo che sono accumulati i primi ritardi e le regioni devono presentare dei piani entro il 30 giugno, quindi un mese dal decreto rilancio, sono stati presentati e bollinati solo a fine luglio, inizio agosto. Poi c'è stato un rimpallo tra commissario e regioni su chi doveva far partire i lavori e a chi toccava la responsabilità. Alla fine si è partito con un bando che si è chiuso soltanto ieri, un bando a fine settembre, e i lavori dovrebbero iniziare a ottobre. Nel frattempo le regioni però un po' si sono mosse, hanno stabilizzato un po' dei posti letto che avevano creato in modo straordinario, ma ne hanno aggiunti all'incirca 1.200. E quindi alla fine il quadro che abbiamo adesso, come ricordavi te, che le terapie intensive stanno cominciando a salire in modo preoccupante, è che ci sono alcune regioni che sono davvero in ritardo, soprattutto si può dire quelle che forse non sono state investite dalla prima certo, ondata. Ma perché questo ritardo? Adesso, tanto le elezioni regionali ci sono già state, perché la Campania probabilmente partiva da una situazione, devo dire, un ascoltatore che bestemmia scrivendo, guardi che lo dica che non sono solo Covid, no, i numeri che ho dato sull'aumento di terapie intensive riguardano solo i pazienti Covid, mica mi metto a fare tutte le terapie intensive in un giorno di incidenti stradali, complicazioni e di altro genere, sto solo parlando dei posti in terapia intensiva in più, sono 62 in più in un giorno, 514, ma dicevo, si riesce a capire il perché del ritardo? Perché abbiamo visto, l'ho messo anche in classifica venerdì, un rimpallo, il commissario Arcuri dice sono le regioni che si sono mosse tardi, ma perché questo ritardo? Beh, come al solito quando, come dire, si deve fare la programmazione, noi non siamo, no, non siamo mai così rapidi. Probabilmente ha contribuito al fatto che quest'estate qualcuno forse si è illuso che il virus mutasse e che forse non ci fosse questa emergenza. Noi ad agosto sul Sole avevamo detto che c'era il rischio dei ritardi, in effetti alla fine si è verificato. Poi c'è la situazione che paga l'Italia e alcune regioni da anni sotto commissariamento per la sanità, che hanno tagliato le spese sanitarie. La Campania partiva da 335 posti letto in terapia intensiva, al momento secondo il monitoraggio del governo ne avrebbe 427, quindi ne ha aggiunti, però non sono sufficienti almeno in base alla popolazione e agli abitanti, quindi ci sono alcuni territori che potrebbero veramente, come dire, subire una seconda ondata davvero pericolosa. Allora, nel frattempo lo dico a chi continua a scrivermi, io non capisco veramente, guardate ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, a nessuno piace vedere le chiusure o vedere una situazione del genere, però vorremmo evitare il peggio. Allora, oggi la NAO, che è il sindacato principale dei medici, ha detto con i numeri attuali gli ospedali italiani potranno reggere almeno per 5 mesi, e quindi uno dice va bene, la situazione è gestibile, ma se dovessimo assistere a un aumento esponenziale dei casi, come sta accadendo in altri paesi come la Francia, il sistema ospedaliero italiano avrebbe una tenuta di non oltre 2 mesi, lo dice Carlo Palermo, segretario di ANAO Assomed, che è il maggiore sindacato dei medici ospedalieri. Se si passasse dai 5.000 casi di contagio giornalieri agli oltre 10.000 come in Francia, si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera. Allora, lo dicono i medici e parlate con i medici, poi qua c'è qualcuno che sa sempre tutto e non ho mai capito cosa faccia nella vita e deve sparare perché la tastiera, diciamo, è più veloce delle sinapsi delle volte. Comunque, quando, visto che il bando si è chiuso, secondo te avremo una sensibile miglioramento, soprattutto nelle regioni che sono a meno della metà o alla metà dei posti rispetto alla soglia di sicurezza? Allora, in realtà diciamo che mi hanno spiegato che in alcuni ospedali i lavori potrebbero essere molto rapidi, perché si tratta di come dire, fare interventi in reparti abbastanza predisposti. In altri ospedali invece i lavori sono più significativi. L'obiettivo è arrivare a fine anno per raggiungere questi 3.500, preziosissimi 3.500 posti letto. Speriamo appunto che non ci sia questa crescita esponenziale che dicevano i medici ospedalieri, perché va ricordato ai tuoi ascoltatori che Gli effetti sugli ospedali si vedono a 20-30 giorni dai contagi, quindi i contagi che vediamo oggi, i 6.000 contagi che vediamo oggi, una porzione di questi contagi potrebbero diventare ricoveri e terapie intensive tra 20 giorni e 30 giorni. Ecco, quindi bisogna ricordarsi questo trend per capire se a novembre e dicembre ci troveremo davvero in difficoltà. E speriamo che a questo punto chiuse le gare arrivino, poi c'è il tema anche del personale infermieristico, sappiamo, abbiamo visto 20.000, perché non basta avere poi i respiratori e le terapie intensive, ci vuole anche il personale qualificato su questo, a chi mi dice ma l'età, guardate, il ragionamento sull'età dei morti per Covid è un ragionamento che non accetto, intanto perché ognuno di noi magari è un genitore che ha una certa età e voglio dire, non è che improvvisamente o la mettiamo come il mitico Boris Johnson, prepariamoci a dire addio ai nostri cari, poi tutti abbiamo rischiato di salutare lui, cioè cosa vuol dire che se uno ha 78 anni può morire mentre se ne ha 58 no, un conto sono le complicazioni, però oltre a questo guardate che il problema che non capiscono i covidioti, perché adesso mi sono rotto, è che al di là del covid, diciamo anche che voi siete d'accordo che chi se ne frega se un ottantenne muore di Covid. Il problema è che siccome in questo paese non li lasciamo per fortuna per strada, gli ospedali si affollano anche per queste testine che mi stanno scrivendo che magari hanno 50 anni, a cui non auguro di avere nessun problema né lui, né la moglie, né i figli, perché se poi l'ospedale è affollato, se stanno già riconvertendo interi reparti di nuovo a Covid, hai voglia a farti fare altre operazioni. Abbiamo visto cosa è successo, mancano 5.000 morti nell'ultimo studio fatto dall'Imperial College per quello che riguarda la Lombardia, che probabilmente sono stati dovuti a una saturazione del sistema sanitario, in questo caso lombardo, che non è riuscito a seguire altre, come avrebbe fatto normalmente, altre patologie. Vogliamo capire che non basta dire il Covid? Vogliamo capire che poi se vai in ospedale il problema ce l'hai anche tu, che magari ci vai per una peritonite, per qualunque altra cosa, no? Vabbè, comunque grazie anche a Marzio Bartoloni. Andiamo sul DL Agosto invece, vai. Neanche dire che a questo punto bisognerà prendere il MES, tanto io lo sapete come la penso sul MES per l'apparato ospedaliero, ma iniziamo intanto a spendere questo 1,3 miliardi che il governo ha messo a disposizione. Allora, il DL Agosto, tra l'altro, che è entrato in vigore ieri, è stato approvato definitivamente, e converte in legge il decreto di agosto, appunto, da 25 miliardi. Le cose previste, oltre a quelle che ricordavo per i ristoranti, il super bonus, il cashback, ne abbiamo parlato, da dicembre pagando con carta e banco, ma si cominceranno a accumulare i punti per avere il rimborso del 10% delle spese effettuate fino a un massimo di 300 euro, cioè fino a un massimo di 3.000 euro di spese, quindi 300 euro. Ancora i congedi per i genitori con figli e altre misure in favore dello smart working, per i lavoratori fragili. Sostegno al reddito, la CIG Covid e le nuove indennità assorbono 12 miliardi e poi comuni, province e regioni ricevono 5 miliardi per far fronte alle casse vuote, per riaprire anche i cantieri dalle strade alle scuole, 1 miliardo per la riapertura degli istituti scolastici e per ridurre le liste d'attesa nella sanità 400 milioni a disposizione del commissario per finanziare i vaccini italiani contro il coronavirus. C'è però un aspetto che è quello che sta più creando mal di pancia e mi riferisco alle tasse. Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Ancora abbiamo problemi con Parente, allora se non riusciamo a trovarlo do la borsa e poi cerchiamo di recuperarlo se ce la facciamo nella seconda ora del programma, perché la dico subito sulle tasse, non lascio gli ascoltatori appesi. Non è passato l'emendamento che voleva posticipare il ritorno delle cartelle esattoriali. E quindi da venerdì l'Agenzia delle Entrate torna a notificare 9 milioni di cartelle esattoriali. Allora, Gualtieri, ministro dell'Economia, ha già chiarito lunedì scorso che la ripresa sarà graduale, cioè si ripartirà dalle cartelle di marzo con l'obiettivo di chiudere il nuovo arretrato maturato nei prossimi sei mesi. Attenzione però a questo, vuol dire che tutte le cartelle da marzo fino a ottobre verranno in questo ordine cronologico elaborate. Le nuove cartelle, quindi quelle novembre 2020, non vuol dire che verranno date a Pasqua, cioè che avranno sei mesi di ritardo. I sei mesi per smaltire, diciamo così, le cartelle valgono per quelle arretrate, per cui chi l'ha avuta a ottobre probabilmente a marzo, da quello che abbiamo capito, febbraio-marzo dell'anno prossimo. Ma le nuove, quelle di novembre 2020, partiranno regolarmente. Tra l'altro domani, Sole 24 Ore, dico che mi sta scrivendo, ha un focus di 16 pagine sulle novità fiscali del governo nel decreto agosto, e quindi dopo che appunto è stato convertito in legge. Do un rapido aggiornamento sui mercati. Meno 0,80% Milano in chiusura, meno 0,90% Francoforte, meno 0,60% Parigi, Londra meno 0,70%, Dow Jones meno 0,30%, peggior titolo Bipper meno 5,12%, Mediobanca meno 3,70% come Unicredit, il 3,60% lo perde Saipem, il 3% Banco BPM, il 2,5% Tenaris, fronte opposto CNH più 1,40% e Steam Electronics più 0,60% come Terna. GR24. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma li leggi i giornali? Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist.com. È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,50 euro. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Immaginare un nuovo equilibrio tra uomo e natura per salvaguardare il futuro della Terra. Esperti del settore si confrontano su verde urbano e tecnologico a Flormart City Forum, Fiera di Padova, 1 dicembre 2020. Padova Hall e Promex, insieme per un futuro sostenibile. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Gli incentivi Alfa Romeo continuano a ottobre. Scegli Giulietta e solo sulla pronta consegna con finanziamento Flexi di FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata 1, 3 o 6 mesi. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 ottobre, soggetta ad approvazione FCA Bank. TAN 675, TAEG 893. Info su alfaromeo.it. Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, molti messaggi, era immaginabile dopo la decisione del governo, guardate, molti, in maniera devo dire anche civile, scrivono: ma che senso ha chiudere i bar e i ristoranti a mezzanotte, mica ci vanno gli ottantenni o i settantottenni fino alle due di notte. Allora, da quello che capisco io, il senso è questo: evitare il più possibile assembramenti, e quindi l'alcol da sporto e qualunque bibita da sporto dopo le 21 proibita, e i bar e i ristoranti, se hanno i tavolini fuori o dentro, le persone sedute fino a mezzanotte. Evitare l'assembramento, questo è l'obiettivo. È ovvio che non è una misura per evitare, poi magari qualche 78enne che va a bere una cosa a luna ci sarà nella vita, ma non è per quelli. Il problema è che questi giovani incontrano i loro nonni, ma anche i loro genitori. cioè non possiamo decidere che improvvisamente, oppure cosa facciamo? Isoliamo tutti quelli che hanno, non so, più di 70 anni dai loro figli, dai loro nipoti, li teniamo chiusi in casa, perché se poi il figlio di 20 anni incontra il genitore di 50 che a sua volta incontra il suo padre, quindi il nonno di 80, la catena è chiara, quindi dovremo praticamente isolare tutte le persone sopra i 70 anni, diciamo, per dire, o 75, per permettere ai ventenni di fare la movida, che non c'è niente di male, abbiamo tutti quanti avuto 20 anni, ma mi sembra che i problemi siano altri in questo momento. Su, e poi perché devo isolare un nonno, un genitore di una certa età per permettere al figlio di stare in giro fino alle 2? Ma che cavolo di discorso è? Io non veramente la capisco da volte. Allora, il Fondo Monetario Internazionale oggi in realtà pubblica il World Economic Outlook, quello di autunno, che è in una situazione drammatica migliore comunque rispetto a quello di giugno, nel senso che tutti i paesi, penso all'area euro ma non solo, sono visti in miglioramento come crollo del PIL, parliamo sempre di crollo del PIL, di circa un 2% in meno di crollo del PIL. Faccio la premessa perché sennò sembra quasi una... oh che bello, no. Il Fondo Monetario chiarisce che le perdite complessive per la produzione mondiale a causa del coronavirus rispetto alle previsioni pre-pandemia saranno di 28 mila miliardi di dollari tra il 2020 e il 2021, una cifra che neanche riusciamo a immaginare. E quindi è la crisi peggiore dalla Grande Depressione, e probabilmente lascerà cicatrici nel medio termine, in quanto il mercato del lavoro impiega tempo per riprendersi e gli investimenti sono trattenuti dall'incertezza. Gli stimoli di bilancio per 12 mila miliardi di dollari decisi a livello globale dai vari paesi e le azioni delle banche centrali hanno salvato vite e prevenuto una catastrofe finanziaria, dice così il Fondo Monetario Internazionale. Migliora le stime, dicevo, meno 4,4% la recessione a livello mondiale, una ripresa del 5,2% a livello mondiale l'anno prossimo. Ancora nell'area euro, gli Stati Uniti meno 4,3% quest'anno, l'area euro farà meno 8,3%, 2 punti percentuali meglio del meno 10 stimato a giugno, e 2 punti percentuali in meno di crollo li hanno tutti i paesi considerati, nel senso che la Spagna è l'unico paese che ha visto, purtroppo per la Spagna, le stime invariate, meno 12,8% il PIL spagnolo. L'Italia, che era prevista a un meno 12, viene vista 12,8, viene vista un meno 10,6%, 2,2 in meglio di miglioramento. Anche la Francia, che era prevista dal 12,5, va un meno 10%, quindi in linea sostanzialmente con l'Italia. Il PIL britannico meno 10% anch'esso, la Germania meno 6% contro 7,8% stimato a giugno. Il Fondo Monetario dice: attenzione, la crisi non è finita, non ritirare prematuramente gli stimoli. Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera professore. Buonasera. Allora, è chiaro che stiamo commentando sempre, come dicono gli inglesi, work in progress, cioè mentre continua a mutare la situazione, delle volte in meglio, delle volte in peggio. Il Fondo Monetario però rispetto a giugno, tutto sommato, leva 2 punti percentuali di crollo del PIL, che resta sempre drammatico, alla maggior parte dei paesi dell'area euro. La domanda è molto semplice, dobbiamo vedere il bicchierino mezzo pieno, perché sono 2 punti meno di crollo, o comunque vedere il bicchierone mezzo vuoto, perché comunque meno 10 in Italia, in Francia e in Gran Bretagna, meno 13 quasi in Spagna e anche meno 6 in Germania, insomma, è tutto tranne che una crescita. Ma io sarei per vederlo un pochino più di mezzo pieno. Ecco, cioè... Il Fondo Monetario, soprattutto nei riguardi dell'Italia, ha una lunga tradizione di esagerazioni negative. Mm. 3 anni fa ci diede, l'unico anno in cui abbiamo fatto poi metà più 1,7, ha cominciato a dire che facevamo meno 0,9 e ha continuato a farlo fino all'ultimo trimestre e poi si è trovato con i dati sbagliati. E questa incertezza si è estesa, perché le economie stanno cambiando rapidamente, i modelli matematici non si inventano, i dati mancano, per esempio basta vedere i dati sul Covid come sono diversi da un paese all'altro, anche per qualità, per modo di essere, le procedure non sono uguali, eccetera. Di fronte a questo i ricercatori fanno del loro meglio, individuano delle tendenze, la tendenza è chiara, è quello che ha detto lei, e cioè quest'anno è andata un po' meglio del previsto, l'anno prossimo potrebbe andare ancora meglio, però sempre in maniera sottovoce, eh? Cioè molti paesi alla fine del 2021 non avranno ancora recuperato il livello del 2019, tra questi ci siamo anche noi e c'è mezza Europa. Sì, anche perché la previsione è un 2021 in cui in media si crescerà del 5-6% in alcuni paesi, quindi un recupero parziale, sì, certo. Un recupero parziale, ma che ci porta così a rivedere la luce del 2019, della soddisfazione, insomma. Non è che andassimo benissimo già prima. Probabilmente dobbiamo allungare la nostra vista. Questi anni saranno come saranno, recupereremo, ma se torneremo a essere più o meno quello di prima, abbiamo sbagliato tutto. Perché lei dice che a questo punto, di fronte a una tragedia, si è persa un'occasione? Ah sì, assolutamente, ma pensi un momento all'industria dei viaggi aerei del mondo. Questa qui sta perdendo una cifra incredibile, qualcosa come 1 miliardo di euro al giorno, tutto il mondo. E tutte le compagnie aeree importanti sono in fallimento. Certo. Vengono tenute in piedi dai governi, così, perché bisogna tenerle in piedi. E questo va anche bene per 6 mesi, per un anno, poi bisogna ripensare tutto di questo trasporto aereo. Non si può andare avanti così. E allora che senso ha di giocare sul punto l'1% in più o in meno di PIL l'anno prossimo? Tanto questi signori cambieranno, perché poi appunto di fronte a sconquassi del genere, con tutta la loro preparazione che è molto buona e la loro buona volontà che sicuramente c'è, io sono stato a trovarli qualche volta negli anni scorsi, mi sono confrontato e questo lo posso testimoniare direttamente, però dobbiamo pensare a qualcosa di molto diverso e questo qualcosa di molto diverso non si crea con le piccole mosse soltanto. Dobbiamo pensare in grande. No, certo, uno potrebbe anche obiettare che però finito sto cavolo di Covid con un vaccino, con terapie diciamo sempre più efficaci, magari il mondo di prima non era tutto da buttare, penso alle compagnie aeree, professor De Aglio, magari insomma il tema dei voli, cioè, il tentativo dei governi in questo momento è di tenerle in vita permettendole di traghettarsi al post-Covid, no? Ma vede, già prima stavano avvenendo dei fenomeni che modificavano i rapporti tra i settori. Per esempio, sempre per rimanere nelle compagnie aeree, per non parlare di quelle italiane, la Lufthansa aveva avuto, scandalo, nel 2019, un trimestre negativo, prima volta nella storia. Perché? Perché i treni veloci tolgono traffico sui percorsi medi, e c'è poco da fare, insomma, quelli vanno ripensati. Così come questi nuovi strumenti che stiamo imparando tutti a usare in questi periodi permettono di fare i convegni senza spostarsi. Non è la stessa cosa che andare a un convegno, ma sicuramente non tutti i convegni di prima si rifaranno, convegni, riunioni da fare, eccetera. Molte si risolveranno parlando con gente che sta dall'altra parte del mondo via internet, vedendoli in faccia discutendo e chiacchierando. Hanno fatto persino le riunioni del G7 e del G20. No, ma che la vera sfida ha terminato, adesso un po' presto, professor De Aglio, ma terminata la parte diciamo emergenziale, quindi pandemica, la vera sfida per voi economisti e per noi che cerchiamo di raccontarla, cercando di farci capire, sarà vedere che modello andrà, cioè quanto resterà nel post-Covid. Alcune cose torneranno indietro, altre saranno dei cambiamenti strutturali, perché lo dice anche oggi il Fondo Monetario, da una shock così profondo è impossibile non avere delle cicatrici, ammesso che siano cicatrici, vi sarà il riallocamento di risorse in altri settori, ma lì lo vedremo diciamo una volta tornati da un punto di vista sanitario a una situazione normale, e vedremo invece che cosa è culturalmente cambiato perché poi il cambio culturale determina anche il cambio di atteggiamenti economici. Grazie intanto al professor De Aglio, che ha anticipato quelle che spero saranno a breve le prossime puntate di Focus Economia, cioè quando saremo oltre l'emergenza sanitaria. Adesso andiamo sul traffico, poi invece torna dietro la notizia con Alessandro Paterotti per parlare dei soldi, i soldi del Recovery Fund. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dietro la notizia. Allora, dicevo, oggi spostata al martedì dietro la notizia, il tema, come avevo anticipato, riguarda il Recovery Fund. In che senso? Intanto le notizie di oggi, perché da un lato sul Recovery è ancora lontano il Parlamento europeo su un accordo sullo Stato di diritto, ma oggi Angela Merkel, la cancelliera tedesca, che è anche presidente della Germania del semestre europeo, ha detto: dobbiamo assicurarci che un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio avvenga nel concreto, bilancio 2021-2027, in modo che all'inizio del 2021 i soldi del Recovery Fund possano essere effettivamente presi, e cioè dopo l'accordo sul budget può partire il processo del recovery. Le due cose sono strettamente correlate. Per quello che riguarda le anticipazioni, con ogni probabilità i governi dovranno attendere la metà del prossimo anno per ricevere l'anticipo del 10% del Recovery Fund, che nel caso dell'Italia vale circa 20 miliardi di euro, 6 miliardi e mezzo di sovvenzioni, quindi a fondo perduto, 12 miliardi e 700 milioni di prestiti. La Commissione europea è preoccupata per un insieme di cose: le lentezze di Bruxelles nell'approvazione del piano Next Generation EU, il processo di approvazione dei piani nazionali, che non sarà inferiore ai 3 mesi, e poi la capacità dei singoli stati di spendere soldi, cioè quello che si chiama tasso di assorbimento dei fondi europei, che è stato molto basso nei primi anni dei progetti europei, perché la Commissione prevede che solo il 25% sarà speso nel 2020-2022, quando in realtà ce ne sarà più bisogno, e il 75% verrà speso negli altri anni. Alessandro Paterotti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori. Quindi tutto lì. Il problema è questo: noi discutiamo molto sulle lentezze europee, ma in realtà quello che preoccupa la stessa Commissione europea e la Germania, come giustamente dicevi tu, che cosa è? È l'incapacità di prendere i soldi gratis. L'Italia in questo, paradossalmente, è straordinaria, cioè noi siamo in testa alla classifica europea, questo è misurato dal 2014 al 2020, per i soldi non presi. Si calcola che prendiamo soltanto il 40%, abbiamo preso dal 2014 a settembre del 2020, il 40% dei fondi che ci spettano. Questo è paradossale, pensando al debito che abbiamo, noi stiamo viaggiando verso il 160% del PIL, 2.400, 2.600 miliardi, solo quest'anno ne facciamo 400 miliardi in più. Viene quasi il sospetto che si preferisca il debito, perché non devi spiegare come lo usi, al contrario di quanto avviene in Europa, che invece vogliono sapere come utilizziamo i fondi. Tra l'altro l'Italia si è contraddistinta anche in un altro aspetto di questi 40, diciamo, questo 40% soltanto utilizzato di soldi gratis, non prestiti, anche per la lentezza nella presentazione dei progetti. Se calcoliamo che abbiamo preso soltanto dopo il terzo anno quello che questo 40% che ci spettava, ma soprattutto la complessità dei programmi europei a cui possiamo attingere denaro gratis, dai fondi strutturali al fondo di sviluppo regionale, il fondo di coesione, il fondo sociale, parliamo di altri 700 miliardi che stanno sul piatto. Beh, l'Italia non attinge a questi fondi perché non presenta progetti. Allora la domanda è questa: che cosa stiamo facendo mentre l'Europa discute? Se il nostro problema è sviluppare progetti sensati e di valore economico, soprattutto di qualità di spesa, e il nostro passato è quello di non aver utilizzato questo, il governo farebbe bene a creare una commissione speciale in questo momento per accelerare questa definizione dei progetti, non per seminare idee in giro, come purtroppo si sta facendo. Quello che preoccupa gli industriali, e concludo su questo, poi ti lascio la parola, è giusto, perché guardando alla difficoltà, quasi l'impossibilità di attingere ai fondi gratis, chi ci rimette più tutto il sistema economico e quindi le imprese. No, e su questo noi stessi abbiamo detto modestamente, insomma, che il governo, oltre che farci sapere le linee guida, le abbiamo già capite, arrivare il 15 ormai è dietro l'angolo, il 15 ottobre, che sia il 16 poco importa, ma arrivare a un dettaglio più forte di dove verranno messi prioritariamente questi soldi, penso alle 30 opere infrastrutturali commissariate, magari quelle, però poi non tanto la cabina di regia in questo momento è in mano al ministro Amendola, ma l'idea, io ho parlato di un commissario, tu dici diciamo di una... di un certo, comitato, quello che volete, che sia un commissario, che sia un comitato, basta che sia operativo ed esecutivo, come si dice in gergo, e conosca e entri nel merito, non solo sull'idea di paese così generica che abbiamo. Esattamente. Anche... E poi un'altra cosa, sì. Questo è molto importante. Se facciamo i calcoli sulla base di quello che ha previsto la Commissione, che noi saremo in grado di presentare, perché quando abbiamo detto, quando tu dicevi che solo un quarto dei soldi sarà effettivamente erogato nel 2021-22, perché questo è quello che dice la Commissione, vuol dire che rispetto ai 44 miliardi che il governo italiano ha detto di aspettarsi per l'anno prossimo, noi non incasseremo più di 15. La differenza sarà debito. Sì, e tra l'altro, ma anche incassassimo i 20 miliardi, vediamo di capirci, 20 miliardi sono una manovra finanziaria, quindi l'anticipo lo puoi fare. Il problema, e torniamo da dove siamo partiti, è i progetti, perché i progetti vanno approvati da Bruxelles e poi, per quanto non vi sia il veto, anche dai singoli paesi nazionali. Ma la differenza rispetto a altri periodi è che poi questi progetti verranno verificati di anno in anno, quindi non basta dire voglio diciamo 20 miliardi perché devo partire. Perché devo partire? Esatto. Dovrai poi dimostrare l'anno dopo che questi soldi li hai utilizzati e quindi puoi chiederne ancora, cioè non è un una tantum. Non guarda, so... ho letto pochi giorni fa, due giorni fa esattamente, è stato pubblicato uno dei documenti operativi della Commissione su come verranno fatti gli esami. All'interno la proposta che è stata fatta e quella che sarà discussa al prossimo Eurogruppo è quella di subordinare l'erogazione negli anni dei progetti di cui stiamo parlando, che saranno presentati ora, all'avanzamento dei lavori. Cosa che in Italia rischia di essere mortale, sapendo le difficoltà che ci sono nel mandare avanti i cantieri. E questa è un'altra preoccupazione che dobbiamo avere molto presente, perché la verifica è quella che sarà la condizione necessaria per continuare a ricevere i soldi negli esattamente anni. Mentre noi abbiamo visto che i progetti europei c'erano bandi, uno partecipava al progetto, ma esatto. Qui la verifica sarà stringente, anche perché sarà una verifica, tra virgolette, non solo economica, ma anche di carattere politico. Noi intanto attendiamo, cerchiamo di mettere in guardia, non siamo pessimisti, esatto. Lo dico agli ascoltatori, ma cerchiamo di mettere in guardia, a maggior ragione visto i precedenti italiani non virtuosi sull'utilizzo dei soldi già disponibili, a maggior ragione devi cambiare passo, ma vuol dire anche cambiare approccio, non può essere su base regionale, occorre a mio avviso un commissario o un ente commissariale, chiamatelo come volete. Alessandro. Da parte nostra, guarda, concludo così, io mi rifaccio a Machiavelli, meno si sa, più si sospetta, e quindi è per questo che informiamo. Ed è importante appunto che il governo inizi a dare linee guida ancora più dettagliate, esatto. Su questo. Grazie anche ad Alessandro Platerotti, che ritroveremo con Dietro la Notizia lunedì prossimo. Per quello che riguarda la puntata di Focus Economia termina qui, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.